e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno e benvenuti, ciao Nicoletta. Allora, oggi ti saluto con una bella stretta di mano, non con il consueto abbraccio che ti faccio tutte le mattine. Perché sono raffreddata. È meglio non tocchiarci, esatto, non tocchiamoci. Una bella stretta di mano che Deborah è mancata all'inizio del secondo dibattito tra i due, tra Hillary Clinton e Donald Trump. I due. Alla fine c'è stata, ma che dire, un po' freddina, direi, sì, non si amano tanto i nostri due personaggi, anzi direi proprio che non si sopportano per niente. E si vede subito. Ecco, in questi momenti, come si dice, basta poco, perché il linguaggio del corpo e soprattutto la stretta di mano parlano, raccontano molto di noi. Nel nostro piccolo, infatti, questo gesto può essere rivelatore anche del tipo di persona che abbiamo davanti. Chissà quante volte ci siamo fatte un'idea della persona che abbiamo incontrato proprio dal modo in cui ci ha stretto la mano. Infatti quella molliccia non ti piace, no, quella neanche quelle però che ti stritolano, che ti stritolano, oppure quelli che ti prendono la mano tra due mani o che non ti lasciano più andare la mano, non che uno dice, insomma, me la ridai per piacere. Siamo mai contenti, insomma, basta una cosa moderata ma sincera, insomma, la si percepisce chiaramente. Allora, noi aspettiamo i vostri messaggi naturalmente su questo tema. Sapete che vi stimoliamo sempre con qualcosa di frufru all'inizio della nostra trasmissione. Come vi piace la stretta di mano, oppure siete proprio di quelli che non volete nessun contatto fisico? Perché ci sono anche quelle persone lì, io invece sono un po' toccona, mi piace andare un po' ad abbracciare le persone. Intanto che aspettiamo i vostri messaggi, noi partiamo con la nostra rassegna stampa. E apriamo questa volta con la rassegna stampa di Cuore, con una buona notizia che è tra l'altro proprio in linea con la filosofia di Cuore Denari. L'Italia ottiene guarigioni superiori in neoplasie frequenti come quelle del seno, del colon retto e della prostata, anche se spende meno per i farmaci anticancro rispetto a Germania e Francia. Questo è quanto emerge dal congresso della Società Europea di Oncologia che è in corso a Copenaghen. Noi commentiamo questi dati con il dottor Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Buongiorno. Bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno. A Cuore Denari e bentornato da Copenaghen. Questa grazie. È una notizia sicuramente positiva. Facciamo meglio spendendo meno. Perché siamo più bravi. Ecco. Facciamo molto bene per quelle che sono le energie che abbiamo a disposizione, quindi, ma questo è un dato che ormai diciamo acquisito in Italia, che il livello qualitativo dell'oncologia è certamente di livello internazionale. Abbiamo a disposizione praticamente tutti i farmaci che sono disponibili sul mercato e li utilizziamo molto bene. Questo chiaramente è un merito dell'oncologia italiana nel suo complesso. E viene anche fuori molto dalle sperimentazioni cliniche, quindi dall'attività di sperimentazione molto forte che viene fatta in Italia in tumori di tipo diverso, in cui nuovi farmaci, se vogliamo, sono a costo zero per il sistema sanitario nazionale, perché sono forniti proprio all'interno delle sperimentazioni cliniche. Questo è un altro aspetto nel quale l'Italia si contraddistingue, direi, a livello internazionale in maniera significativa. Dottore, nuovi farmaci sono in arrivo, farmaci innovativi caratterizzati da una tollerabilità migliore rispetto alla chemioterapia, una rivoluzione terapeutica che richiederà nuove risorse, perché se è vero che la salute non ha prezzo, curare costa. Ce la faremo, dottor Maio, a sostenere questa sfida? Dobbiamo farcela, nel senso che dobbiamo trovare ulteriori risorse. Ma dobbiamo anche essere tutti quanti in grado di migliorare il modo in cui utilizziamo le risorse che sono a nostra disposizione, perché i nuovi farmaci che stanno arrivando, in particolare i farmaci immuno-oncologici, quindi i farmaci che attivano il sistema immunitario dei pazienti, sono farmaci che ci stanno dando dei risultati sempre più importanti, sempre più velocemente, e sarà ineludibile utilizzare questi farmaci per i nostri pazienti. Dottor Maio, lei ha citato l'immuno-oncologia, che sembra una vera e propria svolta nella cura del tumore del polmone, che è la terza neoplasia per incidenza in Italia. Ci spiega concretamente i passi avanti che sono stati fatti? I passi avanti che di fatti con l'immunoterapia o immuno-oncologia e quindi con i farmaci che attivano il sistema immunitario e che non agiscono più direttamente come la, tra virgolette, vecchia chemioterapia, distruggendo direttamente le cellule tumorali, bensì agiscono attivando il sistema immunitario del paziente e facendo sì che sia poi il sistema immunitario a tenere sotto controllo la malattia. Questi farmaci che ormai hanno dato dei risultati estremamente rilevanti in alcune patologie, la notizia, direi, almeno a mio avviso principale, che è venuta fuori all'ESMO è stata che praticamente attraverso l'utilizzo di questi farmaci noi miglioriamo la sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro del polmone mai trattati prima rispetto al trattamento chemioterapico standard che abbiamo utilizzato per 20 anni, 30 anni. Quindi è un reale cambiamento di passo, perché significa che a breve avremo a disposizione dei farmaci che sono in grado di sostituire la chemioterapia nel trattamento in prima linea del cancro del polmone in popolazioni selezionate di pazienti. Ecco, e questo è un passaggio epocale, a mio avviso. Questo è un passaggio epocale, ma lei ha aggiunto in popolazioni selezionate dei pazienti, quindi solo per alcuni profili particolari la chemioterapia cederà il passo all'immunoterapia? Al momento sì, al momento il dato che noi abbiamo a disposizione e ciò che sarà disponibile fra qualche mese nella clinica per i nostri pazienti riguarda una popolazione di pazienti che ha un tumore che esprime un determinato biomarcatore sulla sua superficie. Ci sono molti studi che stanno confrontando ulteriori combinazioni terapeutiche sempre nell'ambito dell'immunoterapia, quindi credo che nel giro di un paio d'anni, due o tre anni, probabilmente riusciremo a identificare sempre meglio quali sono i pazienti che possono beneficiare al meglio di questi nuovi farmaci, che purtroppo sono costosi, ma che aumentano la sopravvivenza dei pazienti, e questo non si può dimenticare. Dottor Maio, l'oncologia italiana ha veramente un livello molto elevato di qualità, di efficacia, dietro c'è una ricerca molto fatta per bene, nonostante ciò c'è una, lo leggiamo nei giornali, lo sentiamo anche tra colleghi, chiacchierando anche con gli amici, c'è una sorta di sfiducia nei confronti della medicina. Ci sono polemiche, ci sono persone che non si affidano al medico, non seguono quello che il medico suggerisce, e soprattutto questo è evidente quando si arriva ad una diagnosi così temibile e temuta come quella di un tumore. Vorrei chiudere questo breve chiacchierata con lei, in cui e la ringraziamo, ha riportato quali sono state le novità da questo importante congresso, per chiederle, mettendosi nei panni di chi in questi giorni, in quest'ultimo periodo, ha ricevuto una diagnosi e vuole affidarsi e curarsi per bene ed essere sicuro di essere in buone mani, che cosa deve fare o che cosa non deve fare? Come dicevamo all'inizio, l'oncologia italiana nel suo complesso è certamente un'oncologia, è certamente una, diciamo che ha una professionalità di livello molto elevato. Purtroppo quello che diceva lei, casi sporadici, veramente sporadici in Italia, non sono solo in Italia presenti, ma sono presenti in qualunque paese del mondo, anche parlando con colleghi dalla Germania agli Stati Uniti e quant'altro. Ci sono pazienti che molte volte per loro credenze, per loro idee, decidono che di utilizzare trattamenti alternativi, e questi trattamenti alternativi non hanno nessun supporto scientifico. È ovviamente una libera scelta, chiaramente, ma la libera scelta deve essere quella cercare di essere curati al meglio, trattati al meglio, e affidandosi quindi ai professionisti del sistema sanitario nazionale ed italiano, che nell'ambito dell'oncologia e in tanti altri ambiti ovviamente sono di livello assolutamente elevato. Grazie dottor Maio per essere stato con noi. Grazie a voi. Le auguriamo una buonissima giornata. Prima di chiudere, io vorrei ricordarvi della nostra iniziativa, di questa sorta di diario collettivo che abbiamo proprio organizzato in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Le nostre amiche stanno continuando a scriverci, non solo donne che hanno affrontato il tumore, ma anche persone che stanno loro accanto, compagne, compagni, amiche, sorelle. Sentiamone un breve estratto. Accompagno quasi sempre mia sorella a fare le visite. Lei è più piccola di me, sia di età che di corporatura. Ha 50 anni adesso, ma combatte come una leonessa. Ed è lei che dà forza a noi altre tre sorelle. Non mostra debolezza, è una grande donna. Io non sono il mio cancro, ma lui si è impossessato nella quasi assolutezza di 6 mesi della mia vita, instillandosi in ogni piega del mio vissuto. Ho fatto e farò di tutto perché questa diventi una vera occasione di riscatto, la possibilità di essere una persona migliore, per me e per le mie figlie. Queste sono alcune delle testimonianze, sono quelle di Silvia, di Elisa, le ringraziamo per averci fatto entrare nella loro vita, per averle condivise con noi. Continuate a scriverci, cuoredenari@radio24.it, aspettiamo i vostri racconti che saranno commentati dalla nostra esperta, la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifica e scrittrice. Siamo insieme in questo diario così collettivo per darci una mano. E adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi passiamo subito la nostra rassegna stampa di Denaria. Tra poco. Cuore e denari. Prima di tutto partiamo con l'andamento dei mercati finanziari. Questa mattina stabili Parigi, Francoforte e Londra, sono leggermente positive, leggermente negativa invece Milano. La partenza era stata più brusca e più negativa, completamente negativa per tutte le piazze europee che stanno guardando in queste ore al nuovo rally registrato dal prezzo del petrolio dopo l'apertura della Russia ad un congelamento o persino forse un taglio della produzione che potrebbe essere deciso nel meeting formale dell'OPEC a Vienna il 30 novembre. Siamo tra i 51-52 dollari al barile sia a Londra che a New York. Stamattina è andata molto bene Tokyo, il Nikkei più rialzo di un punto, oltre 17.000 punti. A Piazza Affari stamattina bene, tanti titoli del settore bancario, il miglior titolo è Saipem, guadagna il 2,71%. Per quello che riguarda invece il nostro approfondimento, il piccolo approfondimento di rassegna stampa, vi faccio subito un quizzettone, lo faccia Nicoletta che risponderà per tutti voi. Allora, secondo te... cosa hanno in comune? Eccolo là. Vedi che Carmelo è sempre pronto, è nato pronto. Allora, cosa hanno in comune, ti chiedo? Il responsabile del cantiere Expo 2015. Okay. Colui che ha curato le rilevazioni per il recupero della Costa Concordia. E l'uomo che si è occupato dei rilievi per la TAP, la Transatlantic Pipeline, che è il gasdotto transadriatico che dovrebbe collegare Puglia e Albania. Sentiamo. Ce l'ho. Dai. Sono tutti e tre dei... geometri. Bravi. Brava, ti brava, mando... brava Nico, ce l'hai fatta. Ti mando un anche libro. Maschi probabilmente. Vuoi un libro di cuore o di denari? Io vorrei un libro di denari, allora. Il tuo, con la dedica che non mi hai ancora fatto. No, perché donne è di difficile, denari. Te l'ho detto. Allora, sono tutti e tre dei geometri. E quella del geometra è una professione che vista ormai come un po' vintage, no? E sembrerebbe aver perso il suo appeal, soprattutto sui ragazzi, ma in realtà sta cambiando pelle. E la categoria, l'associazione di rappresentanza di questa professione, appunto, è in grande movimento per sensibilizzare i giovani sulle opportunità legate appunto a questa professione. Siccome noi tutte le opportunità che ci sono nel mondo del lavoro le vogliamo valorizzare e trasmettere a chi ci ascolta, ecco che abbiamo invitato stamattina Fausto Amadasi, che è presidente della Cassa Geometri. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci sono 2 giorni ricchi di appuntamenti per voi a Roma. Allora, negli ultimi 10 anni ho questa cifra che è molto interessante. La professione ha attratto 22.000 giovani professionisti e l'obiettivo generale per i prossimi 10 anni è di inserire altri 25.000 nuovi professionisti nei settori emergenti. Presidente, quali sono questi settori emergenti e soprattutto in che cosa consiste quell'iniziativa che presentate proprio oggi, il programma Garanzia Giovani? I settori emergenti sono quelli dell'energia, quelli dell'ambiente, quelli dell'acustica. Il nuovo BIM, il nuovo sistema di gestire il processo costruttivo, tutte tecnologie nuove sviluppate negli ultimi anni e che sono le tecnologie che sono quelle ideali per poter iniziare oggi un'attività, specialmente per i giovani che hanno quelle capacità di interagire con queste nuove tecnologie e metterle al servizio dell'esperienza, della professionalità, degli studi già avviati. Abbiamo bisogno di avere nuovi giovani, ma nuovi giovani veramente preparati, in gamba, in grado di aggredire il mercato, di aiutarci in quello che è uno sviluppo di una professione che è importante e che da sempre è al servizio del territorio, delle imprese, della pubblica amministrazione. Per quello che riguarda il programma Garanzia Giovani, invece, che presentate oggi, di che cosa si tratta? Si tratta di un programma che è stato così sponsorizzato moltissimo dal ministro Poletti per quello che riguarda l'inserimento dei giovani nelle attività produttive. Normalmente era individuato come un percorso verso il lavoro dipendente, ma in effetti c'è una precisa disposizione che riguarda l'autoimpiego. L'autoimpiego riguarda tutte le nuove attività, tutte le nuove aziende che possono partire, comprese quelle dei liberi professionisti, quindi con l'ADEP e con l'ADEP e l'Associazione delle Casse, il Ministero è partito un progetto che ci porterà ad occuparci nei prossimi mesi di 16.000 geometri già abilitati, pronti per entrare sul mercato e che riceveranno tramite questo percorso notevoli agevolazioni, certo, incentivi alla formazione, agevolazioni al momento della partenza. Per svolgere tirocini, ma anche bonus occupazionali, soprattutto stimoli anche per poter autoimpiegarsi e diventare come dire, imprenditori e liberi professionisti. Presidente, noi siamo andate con Nicoletta un paio di settimane fa a Cersaie, a Bologna, la rassegna del bagno arredo. Abbiamo parlato di come ristrutturare il bagno, c'erano con noi due architetti. Ci hanno scritto una marea di geometri un po' offesi per il fatto di non essere stati interpellati, perché ma anche noi facciamo un grandissimo lavoro per la casa, siamo dei professionisti assolutamente adeguati. Non è che vi sentite un pochino, mi passi il termine per sorridere, di serie B? Ed è in questo contesto che state illustrando anche, state preparando questa proposta di legge della laurea del geometra? Assolutamente, è sempre stato un dualismo, no? Che con architetti e ingegneri ci ha visti sempre protagonisti, a volte alleati, a volte no, fieri combattenti, ma al di là di quello che oggi stiamo presentando e preparando col Consiglio nazionale, con la categoria, è una formazione specialistica adeguata che consente di avere dei ragazzi di 22-23 anni in grado di entrare direttamente sul mondo del lavoro, entrare direttamente sul mercato, evitando quei percorsi poi che si allungano i tempi, che portano le famiglie e le persone interessate ad avere dei tempi biblici prima di poter avere un riscontro della propria attività, della propria professionalità. Il tema è avere dei ragazzi che siano veramente preparati. E questo avviene utilizzando quello che è lo strumento principe, cioè l'università, certo, gli istituti tecnici e tutto il periodo del percorso di formazione che riguarda i ragazzi. Tante cose bollono in pentola, vi seguiremo attentamente. Grazie a Fausto Amadasi, presidente della Cassa Geometri. Buon lavoro, in bocca al lupo per queste due giornate di Roma. Noi intanto andiamo a sentire il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi. In mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Cuore e denari. Step by step, bit by bit. Quanti passi avete fatto ieri e oggi? Vi siete già dati da fare? Questa settimana a Cuore Denari si cammina insieme a Maurizio da Milano che ogni giorno posta i suoi consigli per aiutarci a muovere i primi passi in questa arte del cammino, per fare quei passi che ci porteranno lontano. Camminare bene per stare bene, più che una parola è una frase, uno slogan, ma indubbiamente quello che avviene utilizzando il cammino, e io sono perfettamente d'accordo con il dottore, un cammino a passo svelto, un cammino dinamico che permetta al metabolismo di muoversi in maniera più decisa rispetto ad una semplice passeggiata. E col feed walking in fondo è questo, una camminata dinamica, una camminata a passo svelto, dove la tecnica di cammino, quindi il camminare bene, diventa elemento essenziale anche per poi raggiungere quegli obiettivi che sono il camminare un briciolino un po' più intensamente. E Maurizio da Milano, dal suo libro Camminare Bene, Fust Editore, ci posta dei consigli anche che riguardano la tecnica. Quello di oggi ve lo leggo io. La tecnica del feet walking non rappresenta altro che un insieme di piccoli accorgimenti in cui l'inserimento di alcuni gesti motori contribuiscono a rendere sempre più efficace il cammino. Partiamo dai piedi. Il piede sviluppa il suo movimento partendo dalla parte esterna per poi muoversi progressivamente verso quella centrale per concludersi internamente nella fase di spinta con la punta dell'alluce. Per sapere invece come muovere gambe e braccia, perché occorre muovere anche le gambe e anche le braccia, dovete andare sulle pagine di Cuore Denari. Allora, se però nel frattempo ci avete pensato bene, avete accettato il nostro invito, mandateci un cenno, che so, un like, un sono qui, un eccomi, segnale di fumo, vedete voi, un bacio sulle nostre pagine una social, una stretta di mano non molliccia. Se invece di strada, guardalo lì Carmelo, voi ne avete già fatto tanta, allora bravi, allora raccontateci la vostra esperienza e quindi aspettateci e conduceteci con voi. Se invece qualcosa vi trattiene, magari una buona dose di pigrizia oppure un dolorino, un problema pregresso, chiamateci, perché oggi è tornato a trovarci il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno dottore, ma finalmente buongiorno, un po' che non ci sentiamo, vero? Avete ragione. Ecco, allora, io vi ho un po' trascurato. Bravo, eccolo qua. Allora, camminare per stare bene, dottor Respizzi, è lo slogan dell'Obesity Day di quest'anno, è molto chiaro, efficace. L'obiettivo è prima di tutto combattere la sedentarietà, che è un fattore di rischio per il sovrappeso, ma, e qua vogliamo sottolinearlo, è una minaccia per la salute generale, compresa quella del nostro apparato muscolo-scheletrico. Assolutamente sì, avete perfettamente ragione, è ormai dimostrato da letteratura vastissima come l'esercizio fisico anche a bassa intensità o comunque una cosa praticabile praticamente da tutti prevenga ad esempio la comparsa di osteoporosi piuttosto che l'usura delle cartilagini, che poi è il preludio all'eventuale artrosi. Quindi le nostre articolazioni devono lavorare per rigenerarsi anche periodicamente, cioè lasciarle ferme è addirittura peggio. E quindi questo è proprio un aspetto molto molto importante. L'uomo è fatto per muoversi continuamente fino a 90-95 anni, fin quando è possibile. Stare perché fermi mentre è la cosa peggiore. Mentre ci muoviamo è massaggiamo le nostre articolazioni, un benefico massaggio. Perché è proprio un effetto, cosiddetto un effetto spugna, nel senso che io ogni volta che carico ad esempio su un ginocchio, spremo l'articolazione e faccio in modo che il liquido che c'è all'interno, che si chiama liquido sinoviale, venga richiamato e venga mandato fuori, e c'è un continuo va e vieni di questo liquido che dalle membrane della capsula che sta attorno all'articolazione entra nell'articolazione, esce, e questo porta nutrimento alla cartilagine stessa, che sono una struttura molto poco vascolarizzata, c'è un pochi vasi e che quindi vengono nutrite da questo liquido che è ricco di nutrienti. Fatelo per la vostra cartilagine, insomma. Esatto. Dottor Respizzi, per camminare basta mettere un piede dietro l'altro, ma ci vuole anche un po' di determinazione e di costanza. Ma il cammino è davvero alla portata di tutti? Ci sono delle attenzioni, delle precauzioni o delle controindicazioni? Insomma, se dovesse scrivere un bugiardino del cammino, che cosa ci scriverebbe? Ma io direi questo, il 90% dei cittadini può farlo, tanto per dare un numero. Sì. Io penso che sia una cosa importante capire anche chi può essere escluso, molto pochi, chi sono quelli esclusi, sono persone che hanno o gravi problemi neurologici, e quindi non so, ad esempio postumi di un ictus, quindi hanno grave difficoltà nel cammino, oppure persone che hanno importanti, gravi alterazioni delle articolazioni, o dell'anca o del ginocchio. E quindi queste persone purtroppo sono limitate nella loro possibilità di camminare. Però nella stragrande maggioranza dei casi, anche a tutte le età, camminare è un gesto talmente fisiologico, talmente spontaneo, e sicuramente da Milano è un maestro da questo punto di vista nel raccontare come si fa, che non vedo perché non si debba fare, se proprio non ci sono questi gravi problemi o articolari o di tipo neurologico. Ricordiamoci anche, sì, anche una cosa, abbiamo uno strumento in più, sono gli ausili. Un semplice bastone consente a una persona di camminare magari non tanto, anche se c'è un po' di artrosi del ginocchio, ma gli consente di avere un ausilio, appunto, un bastone per muoversi senza avere del dolore. Quindi quando io mi rendo conto che quando prescrivo l'utilizzo del bastone alle simpatiche signore che vengono in ambulatorio, la vanità naturalmente mi dico: assolutamente no, dottore, mai non potrò mai usare il bastone, uscire col bastone, ma cosa mi sta proponendo? Invece, che proposta indecente. Ecco, il bastone comunque serve, perché assolutamente sì, e poi dà una certa eleganza. E comunque certo, in questo bugiardino in caratteri cubitali con neon che lampeggia, vincere la pigrizia, questo è il vero scoglio. L'avrà detto sicuramente anche da Milano nella sua parte, certo. Vincere, questo è lo scoglio più duro, perché fa caldo, un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, un giorno piove, e quindi si rinuncia invece un giorno sono in ritardo, un giorno mi fa male, ecco qua i dolori e i dolorini, che perché camminando possiamo sentire qualche dolorino, alcuni sono effetto di una mancanza di allenamento. Il caso tipico è quello dello sportivo della domenica che fa una gita fuori porta, si improvvisa camminatore, percorre chilometri, poi il giorno dopo è tutto rotto. Ma a volte anche chi è allenato e ha una buona muscolatura avverte magari un peso doloroso nella parte bassa della schiena, oppure sente le ginocchia che non sono completamente in forma, o ha male ai piedi. Dottor Respizzi, il nostro corpo parla, soprattutto quando lo muoviamo, ci dà anche dei segnali. Ci aiuti un po' a raccogliere i segnali che ci manda? Alcuni sono assolutamente trascurabili, è un modo che il nostro corpo ha per dire: ok, ciao, sono qui, andiamo. Altri invece potrebbero essere delle indicazioni per aiutarci a correggere la postura, a cambiare le scarpe, a perdere qualche chilo o a segnalare qualche altro problema. Ci fa una panoramica dei segnali da trascurare, sì, o da invece attenzionare? Certo, dobbiamo partire da una premessa. Fare attività fisica, muoversi, significa creare una reazione da parte dell'organismo. Di solito questa reazione è assolutamente benigna e indispensabile per migliorare anche la propria prestazione. Quindi se io il giorno dopo che ho fatto una lunga camminata ho male ai muscoli delle gambe, non è niente, anzi è benefico, perché vuol dire che i nostri muscoli si sono risvegliati. Se invece io ho dolore all'interno di un'articolazione, cioè mi fa male le cosce, mi fa male i polpacci, non è niente. Sì. Se invece io ho dolore dentro nel ginocchio, profondo nel ginocchio, all'interno ad esempio nell'anca, e sento un dolore costante, che soprattutto si aggrava se ci carico su il giorno dopo, vuol dire che probabilmente quell'articolazione lì ha qualche limite che devo studiare. Quindi dolori muscolari non ci spaventano. Dolori dentro nell'articolazione, un dolore profondo che magari come sento una spada, anche di notte, esatto, che sento magari anche di notte, che magari mi sveglia, quelli sono dei dolori invece da studiare molto più, in maniera più approfondita. Lo stesso vale anche per i piedi che ha citato prima lei. Anche in quel caso è ovvio che un po' di mal di piedi ti viene, pazienza, non è niente, diciamo la scarpa giusta e usare queste piccole attenzioni, ma se il dolore è localizzato in un punto preciso, è persistente, non ti passa dopo 2 giorni, evidentemente c'è qualcosa da andare ad indagare. Ecco, quindi bisogna andare dal dutur. Esatto, però neanche diventare fobici anche subito per ogni doloreno. Lei ha parlato di ginocchio e parleremo tra poco anche del legamento crociato, che ha giocato un brutto scherzo ad atleti del calibro di Montolivo e Milik. D'altronde, a pensarci bene, i legamenti sono forti ma poco elastici, con una missione, diciamola tutta, che sembra essere impossibile: tenere collegate due ossa, due parti dello stesso osso, evitando che movimenti oppure forze esterne derivanti da traumi ne alterino la posizione. Quindi fanno il loro lavoro, ma ogni tanto si usurano, ogni tanto si strappano. Ma intanto, Franco da Ragusa, Carlo da Vicenza, se avete quindi un legamento crociato, di legamenti ne abbiamo tanti, dottor Respizzi, ma dato che parliamo di cammino e l'attualità ci porta a parlare del legamento crociato di due grandi sportivi, ci occuperemo oggi principalmente di quelli del ginocchio. Ma intanto, Franco, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie, molto sintetico. Signora, io ho 63 anni, ho fatto quindi palestra per anni, fino a quando praticamente ho cominciato a correre perfettamente. A un certo punto praticamente ho smesso di correre, perché? Perché io ho una, mi pare, una L4, una L5 scivolata, e quindi correvo praticamente con una fascia addominale, no? Per tenere dritta la schiena. Se non che, dove vado dal dottore, mi dice che se dovessi continuare a correre posso diventare paralitico, quindi devo smettere assolutamente. Di correre. Ora, io amo correre perché respirare l'aria aperta è qualcosa di eccezionale. È vero questo? Devo smettere di correre oppure cosa posso fare? Grazie Franco. Dottor Respizzi, testo anche la sua memoria, perché le faccio ascoltare anche Carlo da Vicenza. Buongiorno Carlo, poi le chiederò cosa ha detto Franco. Allora Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie della possibilità. Niente, io ho 39 anni, 10 anni fa circa sciando ho rotto il crociato anteriore, mi sono operato, ricostruito e non sono mai stato bene, sempre gonfiori quando caricavo il ginocchio, dunque attività lavorative o attività sportive, fino a che l'ho rotto un'altra volta, ecco. Questa volta però senza accorgermene. Adesso ho fatto delle altre visite per capire cosa devo fare, ho sentito due dottori, un dottore mi dice di tenere un tutore, l'altro dice che non serve a nulla, di fare un innesto osseo. Andiamo dal terzo. Andiamo dal terzo che dirà una terza cosa. Dottor Respizzi, allora, due situazioni diverse che ci permettono di dare delle indicazioni a chi si ritrova in una situazione simile. La prima, da Ragusa, il mal di schiena e la corsa. Esatto. Dunque, noi fino adesso abbiamo parlato di cammino, non di corsa, che sono due situazioni completamente diverse, nel senso che con la corsa ogni passo è un rimbalzo che colpisce in maniera intensa la colonna, per cui, vista l'età del signore, dell'ascoltatore da Ragusa, direi che non è lo sport ideale la corsa, il cammino invece sì. Penso che il collega sia stato anche un pochino drastico nel dire che uno rimane in carrozzina per una discopatia, se ho ben capito è questo il suo problema, sicuramente non si rimane in carrozzina, ma il punto è che la meccanica del gesto corsa versus invece cammino è completamente diverso. Quando io cammino mi sposto senza rimbalzare, se immaginiamo com'è una persona che corre, continua a fare dei saltelli sostanzialmente ogni passo, quindi consiglierei al nostro ascoltatore di fare la corsa, consiglierei vivamente invece di fare il cammino veloce, speed walking. Quindi il cammino è un'attività amica anche delle persone che hanno un problema con la schiena, perché li sollecita meno. E invece a Carlo da Vicenza, che ne ha avuto di tutti i colori con il suo legamento, si è fatto operare, non stava bene, di nuovo si è rotto senza accorgersene, perché si possono rompere anche senza dare segno questi legamenti. Posso dire una cosa? Probabilmente si era già rotto prima, è andato male l'intervento, perché se no si sente uno stack e si rompe e si percepisce, ci deve essere una distorsione. Quindi è probabile che nel tempo, dopo il primo intervento, questo legamento che è stato messo ha ceduto progressivamente e che quindi alla fin fine poi si trova che è rotto, però quando si è rotto, se non c'è un evento traumatico, è una cosa progressiva che è durata probabilmente alcuni mesi o addirittura anni, visto che è stato operato qualche tempo fa. Quindi insomma, è un ginocchio che non è mai andato bene, era un intervento che probabilmente era stato tribulato e non perfetto, come quando le cose può capitare in medicina. Adesso cosa fare? Adesso le revisioni delle letture dei legamenti crociati, visto che si parla di un uomo giovane, sono ovviamente alla portata dei nostri chirurghi. Quando è già stato fatto un intervento, di solito si tende a utilizzare un trapianto preso dal cadavere, che in Italia in questo momento si può, perché il ginocchio è già stato trattato precedentemente, quindi ha già dei danni creati anche dall'intervento. quello che io so, ma io non sono un chirurgo, poi eventualmente consulteremo anche un ortopedico, che adesso si tende molto in una revisione, cioè una nuova ricostruzione, a utilizzare un trapianto da cadavere. Dottor Respizzi, il nostro ascoltatore ha avuto questa rottura, ma probabilmente, come lei ha sottolineato, si trattava di un intervento, di posto di un intervento venuto male, perché se i legamenti sono danneggiati, che cosa sentiamo? Dolore, bruciore, oppure l'articolazione è instabile? Abbiamo un avvertimento? Assolutamente, il paziente percepisce instabile l'articolazione. Quindi sente che il ginocchio va via, ti dice, facendo le scale in discesa sento che il ginocchio va via, sento che mi cede un po' la gamba, non mi sento sicuro, quando salgo, faccio una piccola corsa, sento che questo ginocchio non mi tiene come l'altro. Queste sono le affermazioni classiche del paziente che ha un ginocchio instabile. Ecco, meglio non correrci sopra, naturalmente. Beh, a quel punto, ecco. Sì, cioè, è chiaro, a quel punto si rischia semplicemente di sovraccaricare ulteriormente l'articolazione e magari di fare anche dei danni dei menischi che sono all'interno del ginocchio. Quindi insomma, un ginocchio che il paziente percepisce instabile è un ginocchio che va stabilizzato. Ecco, basta la fisioterapia, tecniche manuali? Direi di no. Un ginocchio instabile è instabile dal punto di vista meccanico, quindi va ricostruito con un intervento chirurgico. E lì bisogna affidarsi al chirurgo. Come e ha fatto poi in questi giorni Montolivo e Milik. E Milik, ecco. E poi c'è la riabilitazione, un periodo lungo anche negli sportivi, che bravissima. Poi per i tifosi sembra subito che siano, li vedono i loro paladini in campo che si muovono, poi capita loro, dice però no, Milik in 5 mesi l'hanno rimesso in sesto. C'è un po' di differenza tra il fisico di uno sportivo e anche le esigenze che ha uno sportivo di professione rispetto alle nostre, a quelle dei signori. Direi di più la seconda, l'esigenza, non ha nient'altro da fare allora nella giornata. La maggior parte delle persone invece hanno un lavoro e quindi non hanno 8 ore al giorno a dedicare alla riabilitazione. Montolivo e Milik adesso sono a disposizione, sono stati operati, adesso hanno un lungo percorso che mediamente in letteratura viene ormai considerato di 5-6 mesi, quindi un sacco di tempo, in cui loro, che sono dei professionisti, fanno solo questo aspetto, seguono solo questo aspetto della loro vita. La maggior parte delle persone invece deve andare a lavorare, certo, deve fare altro. A casa il primo mese, ma poi dopo non ha mica tutto il tempo a disposizione. Quindi è più una questione di disponibilità di tempo nell'affrontare la cosa. Ma comunque sia, anche Montolivo ci metterà 5-6 mesi. Ieri il professor Mariani ha detto che Milik rientra in 99 giorni, ma mi sembra più una buttata, che una, beh, 99 sì. È una cosa abbastanza anche così buttata lì. Ci vuole il tempo che ci vuole, perché è che questo caso è molto soggettivo, ci sono episodi famosi di atleti che sono rientrati molto rapidamente, altri che ci hanno messo molto più tempo, campioni, non persone normali, quindi la soggettività nel recupero di una ricostruzione del legamento crociato è molto importante. Per i nostri ascoltatori che, proprio come Milik, in questo periodo della loro vita stanno facendo un percorso di riabilitazione, quali sono i segnali che ci fanno capire che la nostra riabilitazione sta dando buoni risultati e quali invece sono i campanelli d'allarme che ci possono indicare che qualcosa non sta andando verso il giusto? Non volevo ripetere verso, ma non mi veniva un'altra parola. Era inevitabile. Ecco. Dunque, una delle primissime cose che il paziente ci chiede quando viene a fare riabilitazione è: quando posso lasciare le stampelle e camminare liberamente? Sì. Allora, questa cosa di solito avviene tra un 20-25 giorni ed è indispensabile una condizione, che il ginocchio sia sgonfio. Se persiste una persona operata, il gonfiore di ginocchio, il ginocchio è caldo, oltre i 20-25 giorni c'è qualcosa che non va, è un campanello d'allarme molto importante, perché questo poi impedisce alla persona di lasciare le stampelle e se non lasci le stampelle non riesci a camminare correttamente, non puoi rinforzare i muscoli, non puoi riprendere la tua vita quotidiana. Quindi mediamente una persona abbandona le stampelle in 20-25 giorni, al massimo un mese, ritorna a camminare liberamente in maniera sciolta, spontanea, nel giro appunto di un mesetto, quindi e poi può ricominciare la sua vita, andare a lavorare, utilizzare un'automobile, non fare sport, però fare una vita normale come fanno tutte le persone. Ascoltare Cuore Denari, quello sempre, così incontrerete anche il dottor Respizzi, che adesso paga rapegno, verrà un pochino più spesso a trovarci. Grazie dottor Respizzi. Promesso. Va bene. Salute. Allora, grazie, noi andiamo subito a sentire i mercati. A tra... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog, quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Cuore e denari. Allora, oggi mi sento proprio... Mike, buongiorno più che mai, ecco. Ancora? Ho un altro quizzone, va bene? Sempre a me? Sì. Oddio. Ce l'ho? Pronto? È un documento che ci serve per fare domanda per ottenere una serie di prestazioni sociali agevolate, dal bonus sulla bolletta energetica, le riduzioni per asili nido, mense scolastiche, dagli assegni familiari agli sconti sulla tassa rifiuti. Non è il geometra? Quindi, che cos'è? L'abbiamo già anche anticipato nel GR, ma tu vuoi fare il domandone o devo sempre fare io? Vai, dai, rispondi tu così diamo l'aiutino agli ascoltatori. Agli ascoltatori facciamo fare altre domande e devono fare l'800240024. È il famigerato, famoso ISEE. Brava. Guarda, pure l'applauso, Carmelo, pronto. Vinco Carmelo, mi porto a casa Carmelo. Guarda, vedi un po', se la moglie è contenta. Allora, perché ne parliamo? Perché in questi giorni si stanno diffondendo molti bilanci sul numero delle famiglie che ne hanno fatto richiesta quest'anno dopo la revisione dei requisiti a cui lo scorso anno era stato sottoposto. Proprio ieri il Sole 24 Ore ha spiegato che dopo il crollo registrato nel 2015, nei primi sei mesi di quest'anno le famiglie italiane hanno presentato ben 3.800.000 domande. Ad oggi in realtà sono molte di più, questo è un bilancio che appunto, come vi dicevo, risale a giugno scorso. Ci è sembrato utile tornare a fare un punto della situazione sull'uso dell'indicatore della situazione economica delle famiglie, visto che peraltro in questo momento ci serve anche per fare la domanda a chi ha bisogno appunto della sostegno di inclusione sociale, la famosa SIA, per cui abbiamo interpellato immediatamente intanto uno dei tre autori dell'inchiesta di ieri, Cristiano Dell'Ostre del Sole 24 Ore, ben trovato. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Per una volta tanto non parliamo di tari, tasi, IMU, ICI e quant'altro, perché è il nostro uomo generalmente della fiscalità sulla casa. E poi abbiamo interpellato anche un altro grande amico di Cuore Denari, che è Dino Giornetti, responsabile del settore ISEE per il CAF CISL. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E proprio Giornetti ieri mi ha detto i dati appunto del Sole 24 Ore ne abbiamo anche di più freschi, più aggiornati, non naturalmente per oscurare, mettere in ombra l'indagine del Sole, ma perché appunto i CAF evidentemente hanno qualcosa di ancora più aggiornato, come dicevo Giornetti. Ecco, quanti sarebbero questi ISEE per cui le famiglie italiane hanno presentato domanda fino ad ora? Attualmente dovrebbero essere circa 4.500.000 famiglie ad aver presentato le domande, che sono lo stesso numero dell'anno scorso, già raggiunto i primi di ottobre. E questo, no, peraltro forse anche il Sole lo diceva, in realtà la consulta dei CAF aveva dato questa statistica, tale per cui se questo trend sarà confermato alla fine dell'anno arriveremo a 7,6 milioni di domande inoltrate appunto dalle famiglie italiane per il rilascio dell'ISEE, più 66% rispetto all'anno precedente. Allora molti si domanderanno come è stato possibile appunto avere questa esplosione di queste domande, vabbè che come dire il bilancio di molte famiglie sia un po' più in difficoltà rispetto agli anni passati, è vero, anche se molti parliamo di ripresa economica, ma questa fotografia, Cristiano Dell'Oste, che cosa ci racconta? Ma diciamo che probabilmente deve stupire più il calo delle domande presentate nel 2015 che non il balzo nel 2016. Quindi nel abbiamo senso recuperato che... praticamente un anno perso. Probabilmente sì, o quantomeno un anno nel quale qualcosa si è inceppato, considerato anche il fatto che dal primo di gennaio appunto del 2015 era entrato in vigore l'indicatore con le nuove modalità di calcolo. Nuove modalità di calcolo che poi questo ce lo potrà confermare probabilmente anche sì. Giornetti, hanno spiazzato e non poco quelli che tecnicamente chiamiamo gli enti erogatori, cioè vuol dire i comuni, le università e gli altri soggetti che mettono a disposizione delle famiglie bisognose una serie di servizi certo. o di tariffe agevolate. Voi avete fatto proprio una bella indagine su molti grandi comuni italiani. E si vede che moltissimi comuni hanno scelto nell'incertezza di continuare a utilizzare i vecchi valori di ISEE, quindi ISEE pre-2015, o addirittura di usare il nuovo ISEE ma tenendo ferme le vecchie soglie d'accesso. Questo perché? Perché se è vero che non sempre con il nuovo ISEE si risulta più ricchi di quanto si risultava con quello vecchio, è anche chiaro che cambia la fotografia, quindi per gli enti erogatori era difficile preventivare se ad esempio tenendo ferma la soglia di 6.500 euro di ISEE per accedere a un servizio agevolato, il numero di famiglie sarebbe aumentato o diminuito con il nuovo indicatore. E questo chiaramente era un fattore che risultava particolarmente complicato, soprattutto per i comuni più piccoli, che non hanno grandi strutture per poter fare simulazioni, elaborazioni, e non hanno neanche una base statistica così grande di richiedenti sugli anni precedenti per poter andare a cercare di analizzare il dato. Per esempio, quello che si vede da queste prime elaborazioni, anche da quello che ha detto il Ministero del Lavoro la scorsa settimana, è che il nuovo ISEE dovrebbe essere un pochino più vantaggioso per le famiglie con figli minorenni, con bambini piccoli, e così pure dovrebbe, questa è una cosa che già si sapeva, essere un po' più vantaggioso per chi vive in affitto e non possiede l'abitazione. Però stiamo parlando di indicazioni molto generiche, poi è chiaro che vanno calate nel caso concreto. Certo, infatti. Giornetti, allora parliamo di questi casi concreti che si presentano ai vostri sportelli. Il nuovo ISEE in che cosa sta rendendo la vita particolarmente difficile alle famiglie che hanno bisogno appunto del rilascio di questo documento per ottenere una determinata prestazione sociale o agevolazione? Confermo tutto quello che ha detto il collega dell'Oste, cioè l'incertezza del primo anno sia da parte degli enti erogatori, quindi nel disciplinare le prestazioni con il nuovo ISEE, quindi la preoccupazione di una nuova distribuzione che dai dati esposti dal Ministero non è più presente, ovvero la distribuzione delle classi degli ISEE a zero, delle ulteriori classi dei valori dell'ISEE è simile a quella dell'anno precedente, quindi prima della riforma, quindi a partire fino al 2014, con una distribuzione molto simile. La preoccupazione principale era ottenere un ISEE più alto. Il primo anno grosse difficoltà si sono avute da parte delle famiglie nel recuperare tutti i valori del patrimonio mobiliare, che è uno degli elementi di differenza sostanziali tra il vecchio ISEE esatto. e la nuova modalità. Perché di diciamo calcolo. Che su quella voce lì prima non veniva indicata tanto volentieri, ecco, per essere un po' maliziosi. Il dato è molto palese: nel mezzogiorno l'86% dichiarava un valore di patrimonio mobiliare nullo, che è sceso drasticamente fino ad arrivare al 20% degli ultimi valori, quindi stimati. Quindi la grossa difficoltà iniziale era quella di avere famiglie che più semplicemente non dichiaravano, eludevano, evadevano il dato del patrimonio, che dal 2015 si sono trovate di fronte a un controllo ante, quindi un controllo diretto nell'anagrafe tributaria, e quindi questo ha scoraggiato molto all'inizio i furbetti, cioè coloro che eludevano e evadevano volutamente il dato, perché adesso è riscontrabile direttamente. Esatto, riletto... prima bastava un'autocertificazione, lo scriveva anche il Corriere della Sera ieri, e l'80% delle persone che presentava istanza per il rilascio appunto dell'ISEE dichiarava addirittura di non avere neanche un conto in banca, per cui ecco, diciamo che poi complicato per quanto complicato, adesso la situazione è un po' più quantomeno Giornetti sì, trasparente. Anche semplificata, il sistema bancario rilascia tranquillamente tutti i valori della giacenza media e del saldo dell'anno precedente, quindi è più facile per le famiglie. Quindi si sono avute difficoltà iniziali nel 2015, ma ormai sono state abbandonate in quanto tutti gli enti, gli intermediari rilasciano queste certificazioni con facilità alle famiglie. Quindi oggi presentare un ISEE assume una semplificazione maggiore rispetto all'inizio del 2015. Eppure ci sono molte categorie, tra virgolette, sociali che per questo nuovo ISEE protestano. Ribadisco, ritorno ancora su un pezzo del Corriere della Sera. In particolar modo segnalano le famiglie degli studenti universitari e quelle con disabili a carico, perché per gli universitari il nuovo ISEE è più alto in media del 5%, proprio per la questione del maggior peso dato agli immobili nel calcolo dell'indicatore, mentre per i disabili, su questo avevamo fatto anche una puntata, no? Si ricorda a Giornetti la situazione è ancora più complicata, perché con il nuovo ISEE sono raddoppiati i nuclei con l'indicatore pari a zero, mentre sono aumentati anche quelli che superano la soglia dei 20.000 euro. Ci sono stati tanti ricorsi, a gennaio sono state cancellate quelle norme che facevano entrare nel calcolo tutte le entrate delle famiglie, comprese anche le indennità di accompagnamento. C'era stata una grande battaglia delle associazioni di rappresentanza anche delle famiglie portatrici di handicap. Su queste situazioni che cosa possiamo dire? Dai dati dai dati post riforma, quindi a maggio per tutte le famiglie con disabilità non vengono più conteggiati i redditi di natura risarcitoria, quindi collegabili all'invalidità. Questo ha portato a un aumento, come diceva, del fino al 20% degli ISEE nulli, ma non è facilmente confrontabile perché il nuovo ISEE, quindi a partire dal 2015, permette per la famiglia con disabilità di avere un nucleo ridotto rispetto a quello standard, chiamiamolo così, che è la famiglia che vive con il disabile. Quindi la possibilità di avere un ISEE ridotto ha portato anche ad aumentare questi numeri delle soglie più basse, quindi a raddoppiare il valore del ISEE a zero, mentre precedentemente la riforma l'ISEE dei disabili comunque era leggermente più alto rispetto all'ISEE di una famiglia senza disabilità a parità di redditi. Allora, intanto stanno arrivando alcune domande di alcuni ascoltatori che segnalano proprio le situazioni universitarie e non solo. Adesso prenderemo qualche testimonianza, intanto dobbiamo sentire il traffico e poi preparo i nostri ospiti sul tema che vorrei affrontare appunto dopo la pausa. In realtà l'ISEE è l'indicatore della situazione economica, ma per poterlo rilasciare appunto come possiamo dire, chi lo rilascia? Lo Stato, il Ministero dell'Economia Cristiano? Ci sono sostanzialmente tre strade oggi per ottenerlo. La più praticata è ancora quella di rivolgersi al CAF. Sì, no, ma a prescindere dal punto in cui fisico puoi fare l'iscrizione, con la compilazione della cosiddetta dichiarazione sostitutiva unica. Poi l'ISEE, è lo Stato, un ministero dell'economia, che possiamo dire? Il ministero del welfare. L'archivio centrale delle dichiarazioni sostitutive uniche sta all'INPS. Ecco. Anche i dati che abbiamo noi riportato ieri sono l'INPS, i dati delle DSU registrate tramite l'INPS. Lo si può compilare anche online per chi vuole avventurarsi da soli sul sito INPS. Ma quello che devi compilare è la dichiarazione sostitutiva unica. Certamente, certamente. È a quella che volevo arrivare. A fra poco. Cuore e denari. Milioni di famiglie italiane hanno fatto richiesta quest'anno per l'ISEE. Si calcola che entro la fine dell'anno saranno più di 7 milioni. Detto questo, a cosa serve questo indicatore della situazione economica? Appunto, come sapete, per ottenere tutta una serie di prestazioni sociali. Per poter presentare domanda per il rilascio dell'ISEE occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica. Allora, avete chiaro il modo con cui va compilata, tutti i documenti che è necessario anche allegare per poter fare richiesta appunto dell'ISEE. Adesso, se ce la facciamo, faremo anche una carrellata su questi punti, ma direi di dare spazio anche alle domande dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Microfoni spenti. Con Cristiano Dell'Oste parlavamo della confusa situazione per il pagamento delle tasse universitarie. Sentiamo su questo Paolo da Parma. Paolo? Io ho l'impressione che l'università faccia delle cose strane, cioè saltano fuori due numeri, l'ISEE e l'ISPE, che sarebbe il patrimonio. Loro guardano quello che è più grande e scelgono quello. Cioè, di questo passo guarderanno il numero di telefono, che è più grande ancora, non so. Paolo, non so se è esattamente così, ma Cristiano, mi stavi raccontando anche, appunto, dicevo prima, microfoni spenti, sul fatto che nel mondo universitario si intrecciano diversi fattori che complicano un po' la vita alle famiglie degli studenti. Ma sì, uno è sicuramente quello del fatto che con il nuovo ISEE le famiglie di universitari risultano mediamente, diciamo così, più benestanti, concedetemi questa espressione, e quindi a parità di definizione, che forse era quello che voleva dire l'ascoltatore, esatto, a parità di definizione delle soglie d'accesso per le fasce agevolate della tassazione, rischiano di pagare di più. D'altra parte c'è anche un altro fenomeno, che è quello dell'incremento delle tasse universitarie, che molti atenei hanno deciso, ma qui rientriamo, diciamo, in un qualcosa che non riguarda più l'ISEE, riguarda il fatto che alcune università in difficoltà con il proprio bilancio e con i minori trasferimenti di fondi, la cui ripartizione adesso segue anche dei criteri diversi, hanno dovuto, per così dire, aumentare la richiesta alle famiglie. Certo. Quindi si incrociano questi due elementi. Certo, sull'ISEE un problema c'è, tant'è vero che in primavera il Ministero dell'Istruzione aveva abbassato la soglia d'accesso alle borse di studio, proprio per tenere conto del fatto che con il nuovo indicatore si risultava mediamente più abbienti, per così dire, e quindi bisognava ricalibrare quel livello. Però è anche chiaro che le università sono enti autonomi e quindi ognuna poi decide le proprie soglie, ed è un tema che si sta ponendo in queste settimane, perché statisticamente il grosso degli ISEE relativi alle università vengono presentati proprio tra settembre e ottobre. Allora, andiamo invece adesso a Luca da Roma, papà di 4 figli. Luca, buongiorno. In che maniera l'ISEE le complica la vita? Infatti, adesso cambiamo prospettiva, passiamo quindi dal povero studente al povero papà, diciamo così. Che viene, quello, mi viene un attimo da ridere, perché sto pensando a questo punto dove si apre lo spiraglio, perché lo studente non riesce a pagare le tasse, il papà non riesce a pagare la mensa per il proprio figlio. Io appunto, padre di 4 figli, separato, mi sono visto passare da un anno all'altro la rata per l'asilo nido dai 90 euro per il quarto figlio, sto parlando, dai 90 euro dell'anno precedente ai 400 euro per un asilo chiaramente pubblico, dove già è difficile riuscire a ottenere il posto. Certo, lì. Che cosa le pesa in particolar modo? Che cosa ha sbilanciato così tanto? Questo, allora, mi è stato spiegato che sono stati cambiati i parametri, sì. E questa è già una cosa molto, come dire, ariosa, diafana, che non si riesce a capire, perché chiaramente poi nessuno ti spiega quali sono questi parametri, né al CAF, dice dipende dall'INPS, di là. La mia dichiarazione dei redditi, parliamo di circa 12.000 euro annui, è sempre stata la stessa, quella di mia moglie, della mia nuova compagna, con cui appunto ho questo bambino, è la stessa, parliamo di 5-6.000 euro annui, la sua. Ho io come proprietà neanche una casa di proprietà, ma un magazzino e insomma, diciamo, la proprietà, la situazione patrimoniale non è, non avendo la casa di proprietà. Beh, allora guardi, se Luca, andiamo, se ci sono giornetti, situazioni, sì, che, come dire, all'apparenza sono veramente al limite dell'ingiustizia, no? Perché sulla carta quello che ci descrive Luca è una situazione appunto inaccettabile. Come può fare un controllo di veridicità, insomma, cioè per verificare se effettivamente l'importo che paga per il nido del quarto bambino è un importo coerente rispetto alla sua situazione economica reale? Dalla situazione descritta sembrerebbe palesemente un ISEE più vantaggioso oggi rispetto alla precedente, perché avere 4 figli minori, dalle simulazioni effettuate, a parità di reddito e patrimonio, dovrebbe avere un ISEE uguale o inferiore rispetto agli anni precedenti. E torniamo alla battuta precedente: l'ISEE è solo un misuratore che indica un valore, poi la graduatoria e la ripartizione delle quote, in questo caso si parlava di asilo, mense, quindi la partecipazione al costo viene decisa dall'ente erogatore, che in un momento di scarse risorse probabilmente in questo caso avrà modificato la graduatoria in base a ISEE più bassi, con parità di ISEE, alzando il livello di partecipazione della famiglia, in questo caso per la vita del bambino. Quindi magari facciamo... devo interromperla perché stiamo salutando i nostri ascoltatori, che la trasmissione volge al termine. Chiediamo a Luca se vuole descriverci con qualche dettaglio in più, magari possiamo andare a fare un piccolo check-up, grazie anche all'aiuto di Dino Giornetti e, se vuole, anche Cristiano Dell'Oste. Come sentite, la sigla è in arrivo, dobbiamo salutarci su questo tema che è sempre molto di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vi prometto che ci ritorneremo presto. Intanto, Nicoletta, buona giornata. A domani.